cuore, parlami dei sogni tuoi, delle fantasie che sono in te. Dentro la tua voce son poche le parole, dette in italiano per andar lontano. Fiore dell'est, venuto fino a me dal blu, di notti sognate e mai vissute. Oh no, la strada dei sogni ormai ti porta lontano, dai. Giorni vissuti a ridere a Kiev. La strada dei sogni tuoi si incrocia con la mia. Cammineremo insieme per un po'. Nell'azzurro dei tuoi occhi limpidi, i miei giorni perderei se vorrai. Nei capelli tuoi, l'oro della terra tua, grano delle praterie, sole e malinconie. La strada dei sogni ormai ti porta lontano, dai. Giorni vissuti a ridere a Kiev. Oh, la strada dei sogni tuoi si incrocia con la mia. Cammineremo insieme per un po'. Vento del nord che porti fino a me l'amore.